Buonasera a tutti, siamo in diretta su La Revancia. Stasera qui a Radio Wombat, nella mitica sede di Radio Wombat, abbiamo due ospiti speciali che vengono a rappresentare il collettivo Nuovi Rumori. Scusate, mi è caduto le sigarette, fumare in radio si può perché tanto non mi vedete, quindi posso fare il che voglio. E niente, abbiamo due ospiti speciali, il Guazzo e Rava. Ciao. Ciao. Che salutano calorosamente, potete sentire dal freddo della in cui ci troviamo in questo momento. E niente, vengono stasera, abbiamo questi due ospiti che ci parlano un po' non solo del collettivo, ma principalmente, visto che questa è una trasmissione musicale in cui finora sono stati passati tantissimi pezzi, ci parlano un po' delle loro, diciamo, canzoni preferite, delle loro influenze, del loro passato, futuro, presente. Ci si prova, dai, in qualche maniera. Allora, ciao Guazzo. Grosse risate. Bene, chi parte per primo con la prima canzone? Parte il Rava, allora. Così, va bene. La prima canzone che metterei è... Sì, metterei Loco Star dei Neurosis, che per quanto sia un gruppo, cioè, spiego perché l'ho scelta alla fine. È un gruppo che c'è da 30 anni, hanno fatto il 30° quest'anno, ma io li ho scoperti da relativamente poco, perché il metal, o comunque i derivati del metal, non sono una cosa a cui mi sono approcciato da non molto. Poi li ho visti quest'anno nel loro tour del 30° e poi perché comunque sono un gruppo che ha qualcosa a che fare con la scena dei centri sociali fiorentini, perché negli anni, a fine anni 90, hanno suonato nel tour, credo, del disco di True Silver in Blood, quello che portato io, ed è una cosa più o meno insieme ai Fugazzi, è uno di quei concerti a Firenze si ricordano più o meno tutti. Quelli che c'erano se lo ricordano, e quelli che non c'erano era noi a scuola, ce lo se lo sognano, sì. Io magari, cioè, magari tutti eravamo a guardare un cartone animato della Disney in cassetta quella sera. Darwinite. Ciao Darwin. Bene, allora il primo pezzo di stasera, I Neurosis, go. Bene, siamo tornati in diretta su Radio Wombat e abbiamo sentito Neurosis, questo gran bel pezzo, e adesso diamo la parola all'altro ospite, ci presenterà il pezzo che ha scelto lui. Allora, ciao, sono Iguazzo e niente, stasera c'era stato chiesto di portare qualcosa che bene o male ci rappresentasse e io ho portato come primo pezzo Tiger Suite dei Rain, che è praticamente il primo concerto che ho visto al Next Emerson in occasione di un vecchio Sons of Vesta Fest assieme alla Pieti e altri. Che anno era? 2009? 2010? Probabilmente, non lo so. E comunque niente, mi piacquero tantissimo fin dall'inizio, io non ero troppo dentro a determinati tipi di ambienti, quindi per me era tutta una situazione nuova e vederlo in quel contesto lì, un gruppo del genere, mi ha fatto ancora più effetto, perché comunque era d'impatto e mi piacquero molto, ecco. Fine della presentazione. Bene, Tiger Suite dei Rain, cantate la squarciagola. Sono appena finiti i Rain con Tiger Suite, adesso lascio la parola a Rava che ci presenterà la seconda canzone che ha deciso di portare stasera. Allora, la seconda canzone direi che... E tra l'altro è tutto in diretta, cioè io non so quale vogliono mettere, al momento in cui la dicano la metto, perché la tecnologia ci permette anche questo. Cioè, oggi. Quei 30 secondi di buffer in cui penso a cosa dire e quale canzone scegliere, però direi che la seconda canzone che metterei in questo momento sono gli Shellac, e l'ho scelta perché alla fine è una canzone che, per quanto non sia pesante o dura come le altre che abbiamo sentito fino adesso, però in realtà lo è, per me lo è molto, e poi è uno di quei gruppi, gli Shellac, che sono molto freddi, probabilmente era ispirato dal clima che stiamo respirando. Stiamo respirando qui nella stazione sull'Antartide in Groenlandia. In Groenlandia. Siamo in diretta dalla Groenlandia, dove hanno suonato anche Metallica 10 anni fa, sì. Bene, adesso ci sentiamo Prayer to God degli Shellac. Sì. Shellac of North America. Catalog number TG211 CD. Audio compact disc. 44.1 kHz sample rate. 16-bit word length. Samples represented in 2's complement binary. 8 to 14 expansion. Set reproducer for reference level. 1000 Hz. 2 to 1 true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold back. Someone or other might come. Then fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him, just fucking kill him. Fucking kill him. Fucking kill him already, kill him. I'm fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Kill him already, kill him already. Kill him. Fucking kill him, just fucking kill him. Fucking kill him. Fucking kill him, kill him, just fucking kill him. Kill him already, kill him already, kill him. Amen. Sono finiti gli Shellac, stavamo parlando di tour e dinamiche nel mentre del pezzo. E bene, continuiamo, andiamo avanti con un altro pezzo portato dal Guazzo. Sì, direi di andare avanti con i Magdalene. I Magdalene perché i Magdalene sono un gruppo che io vidi tantissimo, un po' di tempo fa al Controsenso, mi pare, perché ce li portò tra l'altro David dei Disquieted By, Nativist e via dicendo. E niente, fu un concerto particolare perché ai tempi a me piaceva tutt'altro tipo di musica, per me fu una cosa nuova, anche quella. E un po' come detto prima, cioè, stasera io volevo cercare di portare cose che per me hanno rappresentato quasi una svolta, diciamo, ecco. Perché i Magdalene in quel caso lì facevano un qualcosa che per me era nuovo, e quella sera per esempio mi sembrava che un amplificatore addirittura cantasse. Sì, ma questo non era colpa dei Magdalene. Ma li ha visti? Però. No, li ho visti. Almeno i Magdalene non stavano in una cartina, ma dubito. No, fu un grandissimo concerto, erano ancora in quattro e era la formazione originale. Mi sa che c'era anch'io, tra l'altro, per caso, ma casissimo, però io mi ricordo di averli visti a Controsenso. Senti, ero lì andato anche io per caso con Andrea e si trovò questo gruppo a suonare che era veramente bello. Poi tra l'altro non mi ricordo neanche chi ci suonava insieme, cioè, mi ricordo solo di loro. Ti ricordi che giorno era? Non lo ricordo. I Magdalene al Controsenso. Che canzone mettiamo quindi di Magdalene? Mettiamo Elegia, che è praticamente del primo lavoro che hanno fatto loro, che era un piccolo EP. Si parte? Alla parola EP, è perché sono girato di spalle, perché se, cioè, se stessi così, tipo, lo, per guardarlo in faccia, avrei capito e, al, si fa, partire, e dovevo partire, no, sì. Andare. Magdalene. stanno finendo i Pisani Magdalen mentre continua la sfida tra anni 90 e primi 2000, tra il guasto e il rava. Finiti ora i primi 2000, vabbè, primi 2000 non proprio, intorno al 2010, diciamo, un po' prima del 2010 si passa agli anni 90. Finalmente si torna indietro negli anni 90, non ho mai vissuto. Però ci sei rimasto. Dove ci sono rimasto però. E niente, il mio terzo pezzo è dei Melvins, che non ho nessun discorso oltre a dire che a me piacciono. Però secondo me è un pezzo che spacca e va bene. Fiat. Tratto da un grande disco, è l'unico disco che apprezzo, cioè che è l'unico disco che mi piace davvero dei Melvins, devo essere onesto. Detto, comunque a me i Melvins piacciono, ma alla fine ci sono due dischi penso che mi piacciono veramente, uno è Houdini e quell'altro è degli anni 2000, quindi potrebbe piacere anche a Pozzo. Invece no, anche a me piace solo questo. Solo Houdini, ma a me va bene. Cioè è un buon compromesso. Diciamo. È un buon compromesso, cioè alla fine è il disco più... meno... freak è un po' più concreto e questo pezzo dura poco, ma dentro c'è un sacco di cose, un sacco di anni 90 e non solo, tra l'altro, e non solo, perché con questo disco comunque hanno poi spiegato a tante persone cosa fare dopo. Sì. Bene, Melvins. Sono appena finiti Melvins, stavamo guardando le statistiche dell'audience della radio e abbiamo appena perso un ascoltatore. Un follower. Saranno stati gli anni 90 o gli anni 2000? Chi lo sa? Leonardo, secondo me gli anni 90. Sì, ci sta che siano stati gli anni 90. Ma no, dai, alla fine no, con i Melvins, dai, cioè i Melvins sono per grandi e piccini, piacciono a tutti. Sì. C'è questo disco poi... Va buono, andiamo avanti e concentriamoci nel 2000. Molto 2000 avanzato. Molto 2000 avanzato, 2000 avanti Cristo. Sì, perché si ritorna un'altra volta a un gruppo, per me, svolta. Devi stare più vicino. Così va bene, guarda, vedi la lancetta sta dove deve stare. Sì, sì, no, così è una bomba, lo vedo anch'io. E niente, si ritorna, come dicevo, per un gruppo che per me è importante, perché niente, ha svoltato un po', mi ha fatto un po' svoltare. Te l'ha svoltata? Sì, me l'ha svoltata di brutto. E niente, quando lo vidi dal vivo ci rimasi anche con questi malissimo, perché insomma fu un gruppo che per me fu devastante. Ma perché va a vedere concerti? Cioè perché ti vuoi far male? Perché mi cambiano la vita. Questo è un buon uno spot fantastico per andate a vedere i concerti, perché vi possono cambiare la vita, soprattutto delle band, se è uscito inglesissimo, sconosciute, perché appunto non le conoscete, magari vi piacciono tantissimo e vi cambiano la vita, come è successo al guazzo con questi pezzi che ci ha fatto sentire finora. Sì, infatti, no? Andare a vedere i concerti è bellissimo. No, è la cosa migliore alla fine, perché comunque è un riscontro, è un modo di vedere dal vivo quello che magari hai sentito, quello che magari non hai neanche sentito e ci vai così a caso, e quelle volte sono le cose migliori. Oppure puoi andare a vedere i gruppi che sembrano una bomba e poi fanno schifo. Anche, processo anche. Inverso. Se poi smetti di ascoltarli, dici, poi. E dici no, io ho dei gruppi molto più fighi che ho visto qua e là e boh, dai, mettiamo nel posto di questi. Sì, infatti. O cioè, magari cercare un giorno. No. Cioè magari sì, cambi, non lo so, e sulla chiavetta metti loro al posto degli altri. No? Sì. Non riesci più a sentire gli altri, quel gruppo lì, ti cambia la vita all'incontrario, non lo so. Sì. E te è successo? A me è successo? Ci penso dopo il pezzo. Grande risposta a radio, tra l'altro. Grandissimo. Ora mi tocca ascoltarvi This Will Destroy You. Ora vi tocca, in realtà è un piacere. No, piacerone, altro che piacere. Thank you. siamo di nuovo in onda. In Groenlandia la corrente dai via, si scaglierà l'atmosfera, si cambia bene. Sulla fine dei This Will Destroy You, mentre stavamo parlando, perché noi siamo un po' dei tuttologhi di connessioni internet, e passeremo l'ultimo pezzo, dovremo fare un bel accheggio, perché questo sarà un pezzo che dedichiamo a un nostro caro amico che ci sta seguendo da Careggi, perché è ancora ricoverato per una polmonite. Daniele, gli dedichiamo uno dei due pezzi che ci ha scelto, e purtroppo ti spiegheremo poi in privato perché ne sentirai uno solo. Una cosa degli anni 90, possiamo dire di sì. Una cosa del 2000, possiamo dire di sì. Easy is gone. Sono appena finiti gli Series Gone e noi stavamo già parlando di date di febbraio e tutte cose. E questo pezzo, come ripeto, è dedicato a Daniele, che stasera non è potuto essere con noi. Sembra un triste messaggio, ma in realtà non è così. Tornerà presto, fonti attendibili ci dicano. E bene, prima di salutarvi passiamo a un appuntamento che è stato finora fisso nelle ultime due puntate, cioè l'appuntamento degli appuntamenti, possiamo chiamarlo così, il riepilogo appuntamenti degli appuntamenti del collettivo Nuovi Rumori, o il riepilogo dei concerti che ti cambiano la vita, o anche il riepilogo dei concerti che possono cambiarti la vita. Sì, con il collettivo faremo prossimamente due concerti, no, quattro concerti. Il primo il 19 di gennaio con i Grand Terminal, che sono un gruppo francese che fanno una sorta di emo punk. Quindi del 2000. Quindi del 2000, rigorosamente del 2000, più i By My Side, che sono una felice scoperta. Dalla mia parte. Dalla mia parte. E di, mi sembra, Forlì, Cesena, giù di quelle parti, all'incirca, diciamo, da quelle sì, parti. Sì, tanto quelle parti poi c'è un monte di gruppi che fa... Che fanno una sorta di post-hardcore, screamo. Sì, sì, calderone di tutto. Sì, che comunque sono belli, anche se giovani. E poi da dopo... giovani siamo più belli. Sì. Sì, da giovani siamo più belli. Noi siamo vecchi, per fortuna non ci potete vedere, ma siamo brutti forti. Io in primis. No, io sono bello, lo so. Comunque niente. Gli anni 2000, questo è il risultato degli anni 2000, I am beautiful. Prego. No, è la sicurezza che ci vuole nella vita. Il 9 di febbraio invece, mentre partono le chiamate, il 9 di febbraio... La regia principale ci sta chiamando, risponderemo dopo. Il 9 di febbraio invece avremo i Qui, che sono un gruppo americano sotto l'etichetta di Mike Patton. Sì, i Peacock. I Peacock Records. E poi invece il 25 di marzo avremo i Morcobot. E invece il 25 di maggio, udite udite, gli Youth Avoiders finalmente passeranno da Firenze per la prima volta, penso, in generale. È un gruppo che fa una specie di garage punk francese. Un po' più sparato. Immaginatevi i Ramones messi al doppio della velocità. Sì, sì, preciso. Dai, preciso, preciso. Preciso no, però per farvi capire. Sì. I Ramones a 40, che invece a 33 li mette a 45 e quello è il risultato. Freschi freschi di Fluff, tra l'altro. Sì, sì. Bella performance al Fluff, posso testimoniare. E niente, poi per adesso c'è questo e sono quattro concerti, segnateveli tutti quanti. Dicevamo il 19 gennaio Grand Terminal By My Side più guest, 9 febbraio i Qui dall'America più guest, il 25 di marzo i Morcobot e il 25 di maggio gli Youth Avoiders con le guest? Con i guest, un sacco con di i guest, guest. E gli Youth Avoiders saranno presenti al nostro festival. No? Faremo sì, il festival di chiusura a stagione. Certo. Sì. Va buono. Adesso siamo a fine di questa trasmissione. La sigla sarà come all'inizio e come la fine, come l'inizio delle altre puntate. La fine non è l'inizio. La revancia degli Spaz. Anche se la fine non è l'inizio, gli Spaz sono l'inizio della fine.